Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Vi ricordate cos'è accaduto a Cipro quando le banche hanno fatto crack e il conto è stato chiesto ai cittadini? Bene, proprio da quel momento è iniziato più forte che mai una esigenza di affrontare il tema della responsabilità bancaria a livello europeo. E proprio poco più di un'ora fa è stato segnato un primo importante passo. È stato infatti votato nella plenaria di Strasburgo il pacchetto legislativo che istituisce la supervisione bancaria europea sotto la Banca Centrale. Sentiamo. La Banca Centrale Europea fornirà al Parlamento Europeo una nota esplicativa ed esauriente dei procedimenti oggetto della supervisione bancaria, tale da permettere la comprensione del dibattito, unita a una lista delle decisioni che saranno sul tappeto. Questa è la sostanza dell'accordo raggiunto tra il presidente della BCE Mario Draghi e il presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz sulle modalità di controllo parlamentare dell'attività di supervisione bancaria europea. Il compromesso sul livello di accesso ai documenti della BCE proposto da Schulz ha permesso di sbloccare il voto sull'autorità unica di vigilanza bancaria. Avremo il diritto di nominare il presidente del Consiglio di vigilanza, spiega ad Euronet Plus il parlamentare europeo Sven Giegold, relatore del testo sull'autorità di vigilanza bancaria. Avremo il diritto di avviare un procedimento per licenziarlo, avremo il diritto di nominare il vicepresidente, di richiedere delle indagini e riceveremo tutte le informazioni complete. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordo che il Parlamento Europeo è l'unica istituzione che viene eletta direttamente dal voto dei cittadini, attesa per la prossima primavera. Sempre sulle banche, Barroso l'ha definito un fattore fondamentale per la ripresa del credito alle imprese e alle famiglie. Noi abbiamo chiesto un parere al Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi. Sentiamolo. Io lo condivido, il governo lo condivide, lo abbiamo condiviso fin dall'inizio di questo esercizio, che è molto importante perché l'Unione Bancaria Europea permetterà di creare uno spazio unico del credito bancario e permetterà anche di stabilire alcune nuove regole di garanzia che evitano di dover poi far subire al cittadino contribuente le eventuali pesi di fallimenti o di difficoltà del sistema bancario. Quindi il meccanismo complessivo dell'Unione Bancaria, con un sistema unico di sorveglianza, un sistema unico di risoluzione delle crisi e una garanzia comune in Europa sui depositi dei risparmiatori, è veramente un punto essenziale. Grazie ai fondi strutturali l'Italia potrà contare su 90 miliardi di investimenti aggiuntivi. La sfida, e qui la cito, sarà spenderli presto e bene. Nel frattempo però il governo ha varato una cabina di regia, proprio perché più di metà di quanto avremmo potuto spendere nel settennato che si va a chiudere resta inutilizzato. Creando una cabina al di sopra degli enti territoriali, non si corre il rischio di aggiungere un livello di burocrazia a quello delle regioni? La cifra di circa 90 miliardi che lei ricordava è significativa perché si compone di circa 57-58 miliardi che saranno fruibili a partire dal 2014 fino al 2020 nel quadro del nuovo ciclo di bilancio europeo e circa 30 che restano residui del precedente ciclo. Naturalmente queste due cifre si compongono sia dei fondi che vengono dal bilancio europeo che del cosiddetto cofinanziamento nazionale, che è una cifra quasi uguale che viene dal bilancio nazionale. Ebbene, l'idea di una sorta di cabina di regia serve proprio ad evitare che ci si trovi anche tra 5, 6 o 7 anni nel ritardo in cui ci siamo trovati adesso con i fondi precedenti, in cui resta circa il 60% ancora da spendere. Naturalmente è un nuovo livello, ma noi dobbiamo anche imparare nel nostro paese, nella nostra amministrazione, a interagire in maniera molto più efficace con i vari livelli amministrativi. Se questi vivono esclusivamente di una stratificazione l'uno sull'altra diventano un problema, se invece interagiscono virtuosamente con una corretta ripartizione dei poteri possono darci quell'efficacia che fino ad oggi ci è mancata. Grazie al ministro Enzo Moavero Milanesi, ministro ovviamente degli affari europei. Ora parliamo di telecomunicazione, infatti la stagione diciamo si è appena riaperta, addirittura oggi con le scuole, ma anche quelle dell'Unione, e subito alcuni dossier importanti vengono affrontati nella plenaria di questa settimana al Parlamento europeo. Sicuramente uno dei temi più interessanti per tutti riguarda le telecomunicazioni, il roaming, ma non solo. Sentiamo. La proposta più popolare, che tocca più direttamente le tasche dei consumatori, è quella di tagliare dal 1 luglio 2014 le tariffe per il roaming sulle chiamate ricevute quando si viaggia nell'Unione Europea. Se vai all'estero e ricevi una chiamata sul cellulare, non paghi. Stessa cosa dovrebbe valere per il roaming dati, ma in entrambi i casi ci sarà un monte traffico massimo. Nel pacchetto approvato dalla Commissione c'è anche un capitolo relativo alla neutralità di Internet, un pilastro fondamentale della rete. Ai provider saranno proibiti blocchi, filtri o limiti ai contenuti. Bruxelles vuole poi un maggiore coordinamento nell'assegnazione delle frequenze radio e ritiene che i prezzi di accesso all'ingrosso alla rete in rame, quella cioè che fornisce la DSL, debbano rimanere stabili per i prossimi 6 anni, in modo da dare la certezza necessaria agli operatori per investire nella banda larga. La Commissione ha rinunciato però a proporre un unico regolatore europeo delle comunicazioni e una tariffa unica europea per la telefonia. La proposta dovrà ora passare l'esame del Parlamento europeo e dei governi nazionali. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 torna domani, poco dopo le 13:15. Continua come sempre su radio24.it. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.